It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la vita torna alla normalità, Cappa e Drago si angosciano a vicenda. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago, basta con quella faccia. Ma che faccia, la mi mia fai faccia. Venire l'angoscia. Faccio venire l'angoscia, sì. Ma tu non sei lucido per quello. Come che... no? Ma sì, tu non sei lucido, è inutile che cerchi di farmi vedere le cose per quello che non sono, la simbologia. Siamo in una fabbrica di polli, prigionieri. Che noia, sei noioso, sei noioso. Noioso. Ma possibile che non riesci a estraniarti dalla bruttezza della realtà? Drago, la realtà è sempre brutta. Su questo siamo d'accordo, no? Sì, appunto. E allora evadiamo, evadiamo dalla realtà. Ma come si fa? Qua non si trova mica l'LSD in giro, a no, chiedere. L'LSD ce l'abbiamo noi nel nostro cervello spugnoso. Sì, ma cosa stai dicendo? L'LSD sì. Ce l'abbiamo nel cervello, una cosa che è stata scoperta da Albert Hoffman in Svizzera, aprile 43, giro in bicicletta. No, Drago, ma quale Hoffman? Ma quale giro in bicicletta? Il famoso giro in bicicletta che il chimico svizzero Albert Hoffman fece nell'aprile 43, quando provò su di sé l'LSD da lui sintetizzato qualche tempo prima. E la droga è la droga fa male, eh? Non drogatevi, attutitevi con la paroxetina piuttosto, ma non drogatevi, Amen. Mezzanotte percorsa dai brividi, mezzanotte percossa di lividi, di chi torna a casa e non trova nella porta la sua serratura, di chi torna a casa inciampando e ubriaco si rialza dicendo che mezzanotte fa paura, è solo un'invenzione. Mezzanotte è l'occasione per fuggire via. L'area dimenticata della fabbrica di polli continua il mistero la gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Devi uccidere! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uccidere! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! La fabbrica di polli. Tarek, ancora Cinema? Sì. Ho capito, ma siamo andati anche la settimana scorsa. Poi lui non fa più film. No, non è con lui! È Pierce Brosnan! Lui non fa più film. Questo qua vuol sempre vedere i film di quello là, come si chiama? Patrick Swayze. Patrick Swayze. Qual è? Quello di Ghost? Sì. Sì, ho capito. Ma non fa più film? Speriamo di sì. No, invece non li fa più. Tu vuoi vedere solo lui? Poi è un cane. Tarek. Va bene, allora. Domani pomeriggio andiamo al cinema. Ti prendo anche gli snack. Un bel barattolone di rognoncini. Va bene, rognoncini? Va bene? Sì. Guarda che io l'ho già letto tutto, trama e recensione. Guarda che brutto, eh. Poi dopo vai dentro e piangi, perché ti ricordi l'altra volta? Quando c'era Patrick Weitz, che però faceva la parte del perdente e moriva, e ti sei messo a piangere. Guarda che questo qui è una trama brutta, eh. Allora, adesso abbiamo un accenno di trama e voglio vedere se poi vuoi andare ancora, C'è il protagonista, che non è Patrick Weitz, va bene? E non ti dico chi è, fa niente. E lui che deve fare questa... ha una missione da compiere, no? Segreta, quindi non lo sappiamo neanche noi due, eh? E poi invece c'è qualcuno che gli mette i bastoni fra le ruote, un personaggio odioso, è sempre lì a, a voler mettere zizzania e vuole impedire che lui porti a termine la sua impresa, eh? E sai chi fa questo qui, che è odioso? Patrick Schweitzer, e dopo guarda che lo odi dall'inizio, eh? Perché dopo lo odi, il tuo eroe è quello là, che è uno tipo Pierce Brosnan, anche lui, tipo James Bond. Invece Patrick Schweitzer è cattivo, senza famiglia, ha lasciato i figli, è uno così, tu all'inizio lo vedi e ti illumini, poi dopo la fine del film lo odi così tanto e poi vai tu in crisi dopo, perché dopo tu ti ricordi di come ti piaceva Patrick Schweitzer prima, e adesso che è cattivo dopo e poi vai in paranoia, io non è che lo dico per te, lo dico per me, perché quando tu sei in paranoia sei una roba brutta, Tarek, capito, non ti basta più neanche lo spec. E poi sono affari tuoi dopo, Poi ti lascio lì insieme agli altri pollastri lì, sai cosa ti fanno, no? Lo sai? No. Allora meglio che non te lo dico. Va bene, allora domani. Ti passo a prendere la luna. Ma qui è sempre mezzanotte. Come faccio a venire la luna? La fabbrica di polli. Il pollo di Pollock, nel senso di Jackson, abita nascosto nel dipinto blu. Pollo di Pollock, nel senso di Sydney, vive mascherato nei tre giorni del condor. Il pollo con l'Apollo, nel senso di maglietta, è fratello di Licia, attore pure lui. Il pollo sull'Apollo, nel senso di Volkswagen, è appeso nell'unotto della macchina del popolo. Siamo in ogni angolo del mondo. Kappa, spiegami un po' che cosa intendi quando dici che noi nel nostro cervello abbiamo l'LSD, perché la cosa un po' mi interessa. Ma guarda un po', però non devi prendermi alla lettera. Io dico solo che se non ti piace questa realtà, puoi sempre modificarla e anche senza usare allucinogeni. Ma senza allucinogeni non è divertente, dai. E poi cosa dovrei fare? Cercare di scappare, forse. Questo è l'unico modo di evadere. Però provaci tu a evadere di qua. Ma no, ma si può evadere senza tecnicamente evadere. Fargli delle tasse. Sì, questo sì, lo so. Anche delle tasse. Sì, ma soprattutto della nostra realtà oggettiva del momento. No, perché sai, se evadi le tasse poi devi anche trovare il modo di evadere dal carcere. Quindi sono due evasioni consecutive e non sempre riescono. No, io dico che basta avere una minima capacità di astrazione ed ecco che la realtà cambia. Non so, vuoi essere in un mercato dell'estremo oriente? Ti concentri, ti attutisci anche un po' se vuoi. E poi... vuoi essere, non lo so, sotto la pioggia primaverile in un rifugio di montagna. Pensaci bene, Drago, la tua mente può darti tante sorprese. Basta usarla bene. Apri la tua mente. Apriti. Apriti. Apriti. Sesamo. Che cosa succederà adesso? Riuscirà Cassim, il fratello di Alibaba, a uscire dalla grotta del tesoro? Anche se non lo saprete mai, sintonizzatevi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo spagnoleggiante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Tutte le trasmissioni radiofoniche che senti, quando non c'è quei 30 secondi di musica peraltro schifosa che trasmettono, sono cazzate su cazzate. Tutti che tentano di fare queste cose qua. Invece la vostra trasmissione è bella, insomma, è intelligente, è un umorismo sano che tutti gli studenti dovrebbero prima andare a scuola, anziché pregare, fare la preghiera. C'è la storia del crocefisso, togliamo il crocefisso. Allora, mettiamo un altoparlante. La fabbrica di polli. La fabbrica di polli, 8 minuti, entrati 5 minuti prima, 3 ce li mettono a scuola, 5 ce li mettono le famiglie, sentiamo la fabbrica di polli. E così i ragazzini crescono con qualcosa da dire. Al posto del crocefisso.